La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato a Gaetano Salvemini, intellettuale e politico socialista, impegnato nelle battaglie per la laicità dello Stato, dall'esilio francese negli anni della dittatura fascista e nel secondo dopoguerra. Ospite ai nostri microfoni Mimmo Franzinelli, curatore del volume pubblicato da Bollati Boringhieri dal titolo Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini, dall'esilio alla Repubblica, lettere 1944-1957. Ma la parola adesso va a Dino Pesole. Una figura di intellettuale e di politico a tutto tondo, socialista non certo ortodosso nell'età giovanile della formazione, laico, meridionalista, impegnato nelle battaglie di giustizia e libertà e attivo dall'esilio negli anni della dittatura fascista e poi nel secondo dopoguerra nelle sue battaglie a favore della laicità dello Stato. Stiamo parlando di Gaetano Salvemini, la cui figura e opera è stata rievocata lo scorso 22 giugno nella sede del Partito Radicale a Roma. Nato a Molfetta nel 1873, laureato in lettere, Gaetano Salvemini aderisce al Partito Socialista. Già nel 1911 esce dal PSI e fonda con Antonio De Viti De Marco il settimanale L'Unità per continuare la battaglia antiprotezionistica e la denuncia del corporativismo del riformismo socialista. Nel 1919 è eletto deputato e fin dai primi tempi si oppone al disegno politico di Mussolini. Nel 1925, insieme ai fratelli Rosselli, fonda Non Mollare, il primo giornale clandestino antifascista. Viene arrestato dalla polizia fascista e si rifugia in Francia, dove prende parte alla nascita del movimento Giustizia e Libertà. Nel 1934 emigra negli Stati Uniti, dove insegna nella prestigiosa Università di Harvard. Torna in Italia nel 1947 e per 10 anni prosegue le sue battaglie politiche e civili a favore della laicità dello Stato. Muore a Sorrento il 6 settembre 1957. Attualità politica e impegno civile, ma anche una durissima esperienza personale, quella del terremoto di Messina del 1908, in cui perse la moglie, 5 figli e la sorella. Mi sorprendo ancora, dirà qualche anno più tardi, di non essere impazzito dopo quella drammatica vicenda. Famosissimo il suo ministro della malavita del 1909, con cui sferra un durissimo attacco a Giovanni Giolitti e alla sua politica nei confronti del Mezzogiorno. Durante l'esilio americano la sua produzione si concentra sulla situazione italiana, con i libri La dittatura fascista in Italia del 1928 e Sotto la scure del fascismo del 1936. Di grandissimo interesse i carteggi, soprattutto quello con Ernesto Rossi. Ne parliamo con lo storico Mimmo Franzinelli, che ha curato nel 2004 un ponderoso volume pubblicato da Bollati Boringhieri dal titolo Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini, dall'esilio alla Repubblica, lettere 1944-1957. Buonasera, professore. Buonasera a voi. Professore, ascoltiamo un attimo insieme questa lettera che apre l'epistolario contenuta nel suo libro. Ginevra, 14 marzo 1944. Carissimo Gaetano, arriverà questa mia lettera. Potrai veramente leggere tra pochi giorni queste mie poche righe, come mi ha assicurato l'amico che mi ha promesso di fartela recapitare senza passare per la censura. Quante volte in questi anni ho pensato a te, ho parlato con te con i miei compagni di galera. Quando nella solitudine della mia cella pensavo alle persone che veramente avrei desiderato di riabbracciare, di cui sentivo la lontananza, con le quali prima di morire avrei voluto passare qualche giorno insieme, prima che a tutti gli altri, pensavo alla mamma e a te. A te devo più riconoscenza che ad ogni altro. Con il tuo insegnamento mi hai impedito di cadere in uno sterile scetticismo. Mi hai insegnato a porre problemi, a vedere in modo concreto le cose di questo mondo. Sei stato la mia guida, non solo per la politica, ma per la vita in generale. Allora, professor Franzinelli, Gaetano Salvemini, Ernesto Rossi, un rapporto, potremmo dire, che va molto al di là di quello tra il maestro e il discepolo. Sì, un rapporto addirittura, direi, tra padre e figlio, e a postilla di questo bellissimo passo che voi avete selezionato e che è una dimostrazione della scrittura morale di Ernesto Rossi, c'è una lettera del 6 febbraio del 54 nella quale Salvemini, in un momento in cui tra lui e Rossi c'erano dissidi sul terreno politico, diciamo, precisava: qualunque cosa tu faccia o dica, tu rimarrai sempre il mio primogenito, e quando monarchici, fascisti e democristiani ti manderanno in galera, io verrò insieme a te. Quindi c'era un rapporto saldissimo che datava dal 1914, per cui per tutta una vita c'è stato questo comune sentire, questa impostazione sulla esigenza di un rinnovamento laico dell'Italia, e un rinnovamento che passasse anzitutto attraverso il livello della cultura, prima ancora che della politica. Ecco, professore, la figura di Gaetano Salvemini, il suo percorso intellettuale lo abbiamo in qualche modo riassunto nella nostra introduzione, ne fa senz'altro un intellettuale, un politico di grandissimo rilievo. A suo avviso, qual è l'insegnamento più importante, l'attualità del suo pensiero anche oggi? Guardi, io partirei da un riferimento, cioè Gaetano Salvemini era per professione, era uno storico del passato, ricordiamo i suoi primi studi sul Medioevo fiorentino, sulla Rivoluzione francese, sul Risorgimento, ma, ed ecco il grosso elemento di novità nel quale io ravviso un tratto di attualità, uno storico del suo tempo, le lezioni di Harvard sotto la scure del fascismo, in tempo reale lui analizzava e demistificava un regime dittatoriale come quello fascista che ne abbia scritto la retorica antifascista, godeva all'interno di un consenso. Ebbene, Salvemini andava controcorrente e con la sua strumentazione professionale alimentava un'analisi critica del presente. Questa è la lezione, secondo me, attuale del presente, cioè l'intellettuale non deve essere asservito al potere, deve avere una vigilanza, una coscienza critica, e deve rispondere anzitutto alla sua coscienza prima che appunto a chi è al potere. Quindi l'intellettuale non asservito, non compagno di strada di chi gestisce e modifica l'esistente. E su questo lui ed Ernesto Rossi si trovavano insieme, entrambi all'opposizione, entrambi schierati in quell'area laica nella utopistica ricerca della cosiddetta terza forza, cioè una alternativa a comunisti e a fascisti che non si è in Italia riusciti a costruire e che io credo anche oggi manca. Infatti il suo tragitto politico è molto interessante da analizzare, perché Salvemini nasce socialista ma poi di fatto abbandona rapidamente il Partito Socialista per come era strutturato, anzi lo critica durissimamente, al tempo stesso durissime critiche anche a Giolitti, quindi è una figura di pensatore libero, ecco, questo forse il pensatore, qualcuno lo ha voluto svilire chiamandolo Bastian Contrario, ma era un personaggio che aveva compreso l'esigenza di andare contro coscienza e di guardare in avanti, non di cercare privilegi per l'esistente. E direi che non aveva nemmeno nel secondo dopoguerra, quando tornerà in Italia e riprenderà nel 1949 l'insegnamento all'Università di Firenze, non aveva fiducia nel sistema politico, perché con una vista molto lunga analizzava i partiti nel loro elemento partitocratico di gestione clientelare del presente, mentre lui era più interessato ad aspetti come la redistribuzione tributaria, la riduzione delle spese militari, la lotta alla burocrazia e all'assistenzialismo, e questo è un altro tratto di attualità nei suoi contenuti. Nel carteggio con Ernesto Rossi si colgono, come abbiamo visto, dei tratti di grandissima sintonia tra questi due intellettuali, e molto spesso quando noi analizziamo la produzione importante, letteraria, scientifica di Gaetano Salvemini e Ernesto Rossi, dimentichiamo che questi due personaggi, come molti altri in quegli anni bui, insomma, operarono molto spesso dal confino, all'esilio, e quindi anche con una difficoltà vera a interpretare e a seguire le vicende italiane di quegli anni. Questo è un dato importante. Ricordiamo che Ernesto Rossi si è fatto oltre 9 anni di prigione, 3 anni di confino e 3 anni di esilio, E Gaetano Salvemini, appunto, l'arresto nel 1925 per la controinformazione del non mollare, e poi è l'esilio come scelta di dignità culturale, le dimissioni dall'università. Lui si dimise perché non riteneva più possibile dare comunque una forma qualsiasi di legittimazione a un'università che era occupata dalla politica e nella fattispecie dalla politica fascista, e quindi pagarono un prezzo personale molto molto pesante, e anche qui direi sono inattuali, perché oggi più nessuno, io temo, a livello di intellettuali, ha voglia di pagare dei prezzi alle proprie idee. Ecco, loro alle idee ci tenevano molto. Un'ultima domanda, professore. Molto spesso si associa giustamente la figura di Ernesto Rossi, anche quella di Gaetano Salvemini, agli intellettuali che per primi, ricordo anche Benedetto Croce, ma anche Altiero Spinelli, per primi ebbero, come dire, una visione lungimirante anche per quel che riguarda l'Europa. Da questo punto di vista Salvemini elaborò anche lui una sua teoria su quella che poi sarebbe stata la faticosa, come vediamo in questi giorni, integrazione europea. Sì, il loro ideale era un federalismo con dei tratti utopici a livello europeo, gli Stati Uniti d'Europa. Un sogno al quale hanno creduto sino alla fine degli anni 40, tranne poi ricredersi quando si resero conto che si costruiva un'Europa dei burocrati, un'Europa dei ragionieri. E insieme a loro ci fu anche Altiero Spinelli, che invece mantenne più a lungo fiducia nella costruzione dell'Europa. E perché volevano questa Europa federalista? Perché la loro ferma convinzione era che la Seconda Guerra Mondiale fosse dovuta essenzialmente allo scatenarsi degli appetiti nazionalisti, e quindi volevano disinnescare una volta per sempre questo livello di revanchismo legato a forme esasperate di patriottismo. Per cui Stati Uniti d'Europa, questa era la loro parola d'ordine. Buonasera, grazie professor Franzinelli, buona serata. Grazie a voi.